La domanda può essere, ma allora, vista in quest'ottica, dovremmo stare sempre seduti in contemplazione, quindi il mondo si fermerebbe. E dico, ma assolutamente no. Io posso lavorare anche 10 ore sui web, lavorare sui... L'unica cosa importante è che mentre lo faccio, io sono nella gioia, sono in contatto col centro d'amore che è dentro di me, in contatto con la sorgente dell'essere, e allora posso lavorare anche 15 ore. Che stia seduto su una seggiola, o che lavori a un computer, o che vada per la strada, non ha nessuna importanza. Quindi c'è un'unica cosa importante. Vivo nella gioia. Sono davvero presente a me stesso, sono presente alla realtà nuda così com'è adesso. E allora provo gioia nel contatto e le relazioni che creo partendo dalla coerenza del cuore sono relazioni armoniche, cioè ricche di armonici. Se è così, qualunque cosa va bene.